guardie o ladri? Di Roberto Galullo. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Guardie o Ladri. Subito l'indirizzo mail guardieoladri@radio24.it è il mio blog col quale dialogare. robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Lo trovate anche nell'home page del Sole 24 Ore nello spazio Agora. Il blog si chiama appunto Guardie o Ladri. Oggi continuiamo il nostro viaggio nel mondo dell'amianto e dei rischi ad esso connesso. La scorsa settimana abbiamo avuto ospite Raffaele Guariniello della Procura di Torino e il difensore, l'avvocato difensore del gruppo Eternit Astolfo Di Amato, perché Schmidaini, uno dei proprietari, dei discendenti della famiglia proprietaria del gruppo Eternit, ha cercato di avvicinare i familiari delle vittime con un gesto, diciamo così, di buona volontà, proponendo loro non l'ha chiamato risarcimento, lo ha chiamato una liberalità, comunque dei soldi che potessero alleviare in qualche modo le pene che hanno passato loro e i familiari in questi anni. Continuiamo nel nostro viaggio e abbiamo ospite chi? Abbiamo ospite Bruno Pesce, che è il coordinatore dell'Associazione dei familiari delle vittime dell'amianto di Casale Monferrato, che ospitava fino ad alcuni anni fa una fabbrica molto importante del gruppo Eternit. Buonasera Pesce. Buonasera a voi. Allora, io direi di partire assolutamente da quella che è la notizia di cronaca più stringente, più attuale, vale a dire questa apertura da parte del magnate svizzero Stefan Schmidaini, che offre un indennizzo ai familiari delle vittime. Io direi proprio di partire da qui con la nostra chiacchierata. Come interpretate questo gesto? Questo è un gesto, prima di tutto va precisato, che è unilaterale. Non c'è stata in questa fase una trattativa per tentare un'eventuale transazione complessiva. Quindi è un'offerta, chiamiamola così, rivolta ai singoli individui che abbiano lavorato dal 73 fino all'86, data del fallimento per autoistanza, e quindi nel cosiddetto periodo svizzero, quello che secondo gli avvocati di Stefan Schmidaini non sarebbe il periodo svizzero. Quindi non è un accordo, noi diamo un giudizio negativo perché è peggiorativo rispetto alla trattativa avviata 2 anni fa, conclusasi nel gennaio dell'anno scorso, dove avevano offerto 75 milioni pur condizionati nel tempo, ma che stranamente, e questo è molto strano, avevano già allora posto una condizione che ci aveva obbligati a respingerla, perché noi avremmo dovuto garantire che nessuno in Italia avrebbe intentato una causa, che nessuna procura avrebbe avviato un'indagine. Quindi mi corregga se sbaglio, l'accordo, come dire, non chiuso, ma di cui avete parlato fino al gennaio dello scorso anno, intendiamo dire 2008 o 2007, quando lei dice dello scorso anno. Fino al gennaio del 2007, poi si è interrotta la trattativa. Benissimo. Prevedeva questo. Hanno posto delle condizioni, ecco, incredibili, perché forse le hanno fatte apposta per obbligarci a respingere l'offerta, perché chi può garantire che nessuno faccia un'indagine? Quindi voi all'epoca respingeste quell'offerta di 75 milioni di euro, diciamo così, un anno e mezzo di silenzio, e poi questa nuova offerta allora. Sì, ma noi siamo stati obbligati, avremmo dovuto essere delle persone senza la capacità di intendere e di volere, per sottoscrivere un impegno a che nessuno in Italia facesse causa alle società. Ecco, ricordiamo che soltanto nell'area di Casale Monferrato le vittime accertate morte, mi corregga se sbaglio, sì, sarebbero almeno 2800. Dunque, tra morti e ammalati a Casale sono oltre 2200. Ah, ecco. Sono circa 3000 se aggiungiamo Cavagnolo, piccolo stabilimento, sì, in, sì, vicino Casale, in provincia di Torino, Reggio Emilia, o meglio Rubiera e Bagnoli. Bagnoli in Campania. Torniamo all'attualità. Questa offerta unilaterale, lei diceva, Ma che cosa accade a questo punto? Facciamo due ipotesi. La prima ipotesi è che voi rifiutate singolarmente, oppure che singolarmente i familiari delle vittime accettano. Ecco, allora che cosa succede? Si interrompono i processi in atto? Qual è la catena che lei immagina a questo punto? Sì, dunque, so che in Svizzera circolava voce che questa proposta farebbe superare il processo. Non è affatto vero, il processo penale andrà avanti e speriamo, nonostante in Italia i tempi siano lunghissimi, che sia fissata per i prossimi mesi la prima udienza preliminare. Il processo andrà avanti. Naturalmente noi, pur confermando il giudizio negativo su questa offerta unilaterale, che è molto modesta e molto condizionata anche questo, ma tuttavia pur dando un giudizio negativo come associazione e come CGIL, CISL e UIL, come comitato di tutte le associazioni di Casale, c'è un giudizio negativo, ma noi non mandiamo la nostra gente allo sbaraglio, noi facciamo un'assemblea il 10 di novembre, ma non solo, noi avremo quindi la pazienza e ci metteremo al lavoro per assistere uno per uno tutti coloro che potrebbero rientrare nel cosiddetto periodo svizzero, cioè gli ammalati o i familiari di quei lavoratori che hanno lavorato dal 73 in avanti. Ecco, perché secondo lei questo qui è anche un tentativo, come dire, in maniera subliminale di spaccare i familiari delle vittime? Certamente, il tentativo è di alleggerire, se non togliere del tutto, le parti civili nei riguardi dello svizzero. Sappiamo che gli imputati dovranno essere due, uno svizzero e un barone belga, il tentativo è quello di offrire qualche soldo per poter far sì che la gente, accettando, si ritiri dalla costituzione di parte civile non appena sarà fissato il processo. Ecco, processo che voi attendete da quanto? Mi tolga questa curiosità. Ah, guardi, noi nel 93 abbiamo avuto un primo processo penale, il primo in Europa nei riguardi dell'Eternit, ma riguardava la società locale dell'Eternit, quindi una specie di filiale che faceva tutto sommato da copertura alla multinazionale. Poi abbiamo insistito, anche se allora fu confermata la colpevolezza, ma i lavoratori furono dichiarati tutti prescritti. Noi in Italia abbiamo una giustizia che purtroppo non funziona, un po' per le leggi, un po' per mancanza di mezzi, e quindi noi abbiamo continuato puntando il dito nei riguardi delle responsabilità che sono quelle determinanti ovviamente della multinazionale svizzero-belga, e per recuperare tra le parti lese anche i cittadini che non hanno mai lavorato all'Eternit, ma che in numero così elevato, circa 500, sono morti negli ultimi 20-30 anni, sono morti a causa soprattutto del mesotelioma, tumore maligno che colpisce prevalentemente alla pleura. Certo, ecco, ho una domanda ancora vorrei farle. Sugli articoli che ho letto in questi giorni, ovviamente dei giornali che più se ne sono occupati per la vicinanza geografica, vale a dire il Secolo XIX e La Stampa, non si danno delle cifre esatte, si parla di alcune decine di milioni di euro che appunto dovrebbero giungere dai vertici della multinazionale Eternit, quindi appunto lo ricordava lei, Stefan Schmidini e Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchen, è un nome lunghissimo, è questo, è un 87enne barone belga. Ecco, avete più o meno in realtà voi quantificato quale potrebbe essere l'indennizzo che potrebbe arrivare? Sì, come offerta, intanto, intendo dire. L'indennizzo è portato avanti solo dallo svizzero, quindi il belga finora si chiama fuori. No? Finora tace. Saranno pochi milioni. È chiaro che comunque è un segnale che le acque si muovono, forse loro pensavano che in Italia questo processo non si sarebbe mai fatto, d'altronde è il primo in Europa di questa dimensione, il primo che punta il dito nei riguardi dei vertici della multinazionale, non hanno mai sopportato neanche una causa penale individuale questi signori. Se tutti coloro che hanno quei requisiti dovessero accettare, credo che a Casale saranno forse meno di una decina, forse una decina di milioni al massimo, quindi sono diciamo così somme estremamente basse, ma non perché questi signori siano molto ricchi, certo anche per questo, ma anche proprio rispetto alla dimensione del dramma. Certo. escludono i cittadini che non hanno neanche avuto un minimo di riconoscimento da parte dell'INAIL, Questa è una cosa insopportabile se pensassimo di essere in un paese civile. Civile, certo. Se ecco, pensiamo di essere in un paese civile, è insopportabile che famiglie siano distrutte nei loro affetti, ma anche nel loro unico reddito. Assolutamente d'accordo. Ultima domanda, come le chiedevo, con una risposta sintetica, perché siamo in chiusura del tempo dedicato a questa pagina. Vale a dire, a che punto è la bonifica degli stabilimenti Eternit a Casale Monferrato? Sì, la bonifica, dunque lo stabilimento per fortuna è stato bonificato, un altro anno sorgerà al suo posto un parco pubblico anche della memoria, ma un parco fruibile da tutti, anziani, bambini, eccetera. La bonifica nella città si è esaurita per quanto riguarda gli edifici pubblici ormai da qualche anno ed è al 50% della bonifica dell'intero territorio di Casale più 48 comuni in base ad un piano di bonifica territoriale unico e primo e unico in Italia, uno dei rarissimi a livello europeo, forse l'unico, che prevede di bonificare tutti i siti privati con contributi dello Stato e della Regione che sono da anni in corso. Finora sono già stati impiegati oltre 20 milioni di euro, ne occorreranno circa ancora altrettanti. Guardie o ladri? Bentornati all'ascolto, chi vi parla è Roberto Galullo, mail guardieoladri@radio24.it, blog con il quale dialogare con chi vi parla, robertogalullo.blog.ilsole24ore.com oppure nell'home page del Sole, nello spazio Agorà trovate il mio faccino e il nome del mio blog che è appunto Guardie o Ladri. Allora, stiamo parlando di amianto e dei rischi connessi alla lavorazione e alle fibre di amianto. Ne abbiamo parlato nella prima parte di questa puntata con Bruno Pesce, che è coordinatore dell'Associazione Familiare delle Vittime dell'Amianto di Casale Monferrato, ma è la seconda tappa del viaggio che stiamo facendo nei rischi relativi appunto all'utilizzo dell'amianto, non soltanto per chi lo ha lavorato, ma anche abbiamo visto decine di migliaia di persone che vivevano magari nei luoghi di lavorazione dell'amianto. E ho il piacere ora di avere con noi collegato invece Giampaolo Lilliu. Giampaolo Lilliu è il segretario provinciale della CGIL di Oristano. Buonasera Lilliu. Buonasera. Il gruppo nel quale Lilliu lavorava era la società Sardit del gruppo Sacelit Fibronit Eternit. Sì, perché Lilliu, oltre a essere segretario provinciale della CGIL di Oristano, è stato anche un lavoratore che è venuto a contatto con questa sostanza negli anni scorsi. Dico bene o male, Lilliu? Giustissimo, ho lavorato in qualità di operaio all'interno del gruppo della Sardit dal 1973 al 1993. Una domanda mi incuriosisce farla, Lilliu, ma quando voi lavoravate, in che condizioni lavoravate? E questo glielo chiedo per sapere se avevate o meno conoscenza e contezza dei rischi che affrontavate. Ma vede, già nel 1973, quando io sono entrato a lavorare alla Sardit, pare evidente che per una provincia come il nostro avere un posto di lavoro così che garantiva un salario mensilmente era già una grande conquista. Quando sono entrato non ero a conoscenza assolutamente di quel rischio che io stavo andando a correre. Sono venuto a conoscenza del rischio circa nei primi mesi degli anni 80, quando a livello nazionale facevo parte di un coordinamento del settore cemento amianto. Ecco, a me interessa molto l'aspetto proprio della salvaguardia del lavoratore, del rapporto impresa-lavoratore. Qual era questo rapporto quando voi avete cominciato ad avere conoscenza del problema? Ma evidente, era critico, era un rapporto tra un imprenditore che cercava di far profitto nelle loro attività produttive e dall'altra parte c'erano i lavoratori che si mettevano a conoscenza del rischio che correvano nella lavorazione del cemento amianto. Quindi era un rapporto conflittuale che ci ha visto più delle volte andare in piazza a chiedere e a cercare di ottenere dei diritti fondamentali per la salvaguardia della salute. Non ecco, era facile. Ecco, oggi questo gruppo è ancora sulla piazza, cioè nella provincia di Oristano c'è ancora lavorazione di amianto oppure la fabbrica è stata smantellata? Qual è la situazione oggi? No, la situazione attuale è che erano presenti fino al 1992 due stabilimenti nella nostra provincia, e questa è la particolarità della nostra provincia, l'unica provincia in Italia ad avere due stabilimenti che producevano cemento amianto, sono stati chiusi nel 1992, dopodiché hanno avuto una cosiddetta bonifica che non la contestiamo ancora oggi, contestiamo le bonifiche adottate in questi due siti industriali, però la fine lavorazione è stata nel 1992 quando il 27 aprile proprio dell'anno 92 è stata divulgata la legge 257. Esattamente, la legge 257 appunto del 1992 che ha stabilito il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dei prodotti che contengono amianto appunto nel nostro paese. Le chiedo questo, Liliu, ricordando una cosa abbastanza impressionante che lei ha riportato nella sua relazione del convegno di Milano, cioè che 1000 metri quadrati di Eternit, sostanza che tutti conoscono, usurata, liberano ogni anno 1 chilo di fibra di amianto, quindi stiamo parlando di numeri enormi. Io volevo proprio farle una domanda sulla bonifica, perché anche i lavoratori addetti alle bonifiche sono lavoratori che rischiano. Allora le chiedo, in Italia, nella provincia di Oristano, dove lei ci ha ricordato esistevano due stabilimenti di cemento amianto, come venivano o come vengono condotte queste bonifiche? È evidente che oggi siamo a conoscenza più di ieri dei sistemi di prevenzione, però questo non ci deve far abbassare la guardia. Le dico che questo settore delle bonifiche purtroppo è attraversato da situazioni di precarietà sia della manodopera utilizzata e sia anche come forma di prevenzione, perché è un settore che non tutti vogliono andare a lavorare, pertanto viene utilizzata una manodopera soprattutto extracomunitaria che più delle volte è sottoposta a forme di non prevenzione durante la fase lavorativa della bonifica. Ecco, ma i controlli ci sono, perché quello che lei sta dicendo è di una gravità enorme. Atteso anche il fatto che io posso non sapere oggi che maneggiando una sostanza sconosciuta posso avere o non avere rischi, soltanto il futuro può dirmelo, soltanto ricerche scientifiche che lo appurano possono dirmelo, ma sul fatto che maneggiare sostanze e fibre di amianto sia pericoloso, ormai questo è scientificamente provato. E allora le chiedo, come mai questo accade? Chi deve controllare? Le ASL, le regioni, le province? Chi deve fare in modo che i lavoratori addetti alle bonifiche siano lavoratori tutelati da ogni punto di vista? Il controllo deve essere effettuato tramite i servizi SPRESAL delle ASL territoriali. Non dico che questo non viene fatto, ma però dico che la percentuale di poter essere trovati in rispetto alle norme delle aziende è molto bassa, perché il settore del servizio ispettivo dello SPRESAL non ha un grande numero di ispettori, pertanto pare evidente che alcune bonifiche vengano fatte proprio senza avere il rischio di essere sotto verifica. Ecco, e attenzione, bisogna anche presentare un piano di prevenzione prima di effettuare le bonifiche. Pertanto diciamo sta nella responsabilità degli imprenditori e anche in questo caso dei lavoratori a far rispettare le normative di legge. Assolutamente. Allora, tra il 2001 e il 2007 nella vostra provincia sono stati accertati 67 casi. Lei stesso è tra i 400 lavoratori che tra il 60 e il 90 sono stati addetti alla lavorazione del cemento amianto nella vostra provincia, e quindi lei stesso è un soggetto a rischio. È vero che il picco verosimilmente di mortalità o comunque di manifestazione delle malattie, che poi spesso appunto sono tumorali, ci sarà soltanto fra una decina d'anni? Ma è fuori dubbio. Se lei comprende che il fenomeno della mortalità del mesotelioma nella nostra regione è chiaro anche nella nostra provincia, in quanto c'erano due stabilimenti, deve ancora arrivare il picco, perché siamo operai nati tra il 1940 e il 1950 che hanno avuto l'esposizione tra gli anni 80. Se lei calcola il periodo che questa malattia ha di incubazione, lei si renderà conto che il picco presso nella nostra provincia deve ancora arrivare. Gli ultimi dati stanno dimostrando questo, e attenzione, questo picco non viene solo calcolato tra gli esposti alla fibra dell'amianto in quanto ex lavoratori, ma viene anche confermata che anche chi non è stato mai esposto alla fibra di questo male viene colpito nei territori dove erano presenti questi stabilimenti. Ecco, io... questo è importante. Bene, ringrazio Lilio per il suo intervento. Il nostro viaggio nei rischi legati alla lavorazione e alla respirazione delle fibre di amianto non è terminato, ci torneremo sabato prossimo con nuove interessantissime testimonianze. Grazie a regia Valeria Bernardi, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Guardie o Ladri.